Ma innanzitutto io penso che sia stato un fatto positivo la candidatura di Renzi, perché ritengo che il tema che tu poni, generazionale, di rinnovamento delle classi dirigenti, di rinnovamento del potere, sia un tema fondamentale. Penso che il PD ha fatto un grande atto di generosità consentendo a Renzi di candidarsi anche se le regole lo impedivano. E il tema non è che il PD sta impedendo a Renzi di candidarsi, il PD ha fatto una forzatura sulle regole, spaventosa, perché a regole a partita già iniziata, ha consentito a Renzi di candidarsi anche se non poteva candidarsi. La questione invece della mi interessa molto le cose che sono state dette dai primi ascoltatori, perché ho un'opinione diversa. Noi dobbiamo considerare che i partiti sono delle minoranze. Bra. Non sono delle maggioranze, sono delle piccole minoranze che fanno delle proposte a un paese. L'idea che le primarie possano essere, sono un luogo come se fosse un diritto di tutti i cittadini, è un'idea No, sbagliata. chiaro, chiaro, questo è Sono negli Stati Uniti, dove non c'è vero, l'automatica vero. iscrizione nel registro degli elettori, uno si va a iscrivere nel registro degli Certo. elettori.